Sei un artista indipendente e vuoi promuovere la tua musica? Inviaci le tue produzioni al nostro indirizzo mail. Con Circuito Radio Net Web, la tua musica non avrà confini. Ed ora, in diretta con voi, il Mangia. Buon divertimento. Ci sono, un saluto a tutti cari amiche e cari amici, benvenuti su Radio Oltrepò e anche su Radio Stella. Siete all'ascolto del Mangia Show, questo contenitore giornaliero dove ascoltiamo tanta bellissima musica Creative Commons, ma dove vi leggiamo anche delle notizie più o meno serie del mondo del, insomma, diciamo così, della politica, del costume, anche della cronaca. Un appuntamento consueto, insomma, su queste onde, un tempo si diceva su queste magiche frequenze, un show che vi porterà per mano alla scoperta della musica Creative Commons. Vorrei precisare una cosa: noi, a differenza magari dei network consoni che ascoltate in macchina, non trasmettiamo musica coperta dai diritti d'autore della SIAE, bensì noi trasmettiamo opere che si rifanno la licenza Creative Commons, quindi sono opere che gli artisti hanno scelto di non farsi tutelare dalla SIAE, ma bensì dalla Creative Commons. Quindi, insomma, un programma direi molto innovativo che vi fa sentire qualcosa di diverso dal solito. Ho passato il weekend, insomma, a selezionare le tracce più belle in giro per il web. Per l'esattezza, le tracce sono selezionate da www.yamendo.com e anche da www.archive.org, dove ho trovato, insomma, delle canzoni direi molto pregevoli e di notevole interesse. Partiamo immediatamente con la prima canzone e poi ricorderemo tutti i vari contatti. Il primo brano che apre ufficialmente il Mangia Show è quello dell'amico Graziano Manca, Al secolo Dark Light, dal suo CD, dal suo primo CD per l'esattezza, che trovate in free download su yamendo.com. ho selezionato questa canzone dal titolo Eclipse, a cantare ovviamente Dark Light. Benvenuti a tutti, questo è il Mangia Show. Thank you. come di consuetudine ad aprire il Mangia Show, la musica dell'amico Graziano Manca al secolo Dark Light. Questa canzone era intitolata Eclipse, estratta dal suo primo album, disponibile in free download su www.yamendo.com. Basta cercare Dark Light nella categoria musica elettronica, dance, trance, eccetera eccetera. Dark Light, scritto in piccolo, trovate tutte le sue opere. Ora parliamo di politica. Come ben sapete, in questi giorni si è tenuta l'udienza lampo, denominata così, sul caso Ruby Rubacuori. Un articolo estratto dalla ADNS Cronos: è durato solo 5 minuti l'udienza del processo Ruby, in cui il presidente del Consiglio Silvio Berlusconi è imputato di concussione e prostituzione minorile. I giudici della quarta sezione penale presieduta da Giulia Turri hanno avuto giusto il tempo di ascoltare la richiesta di costituzione di parte civile dell'associazione Arcidonna e di rinviare la causa alla prima data utile, visto gli impegni processuali del Premier. La scelta è caduta sul 31 di maggio. Il Premier, come previsto, non era presente in aula, ma la difesa, rappresentata dal sostituto procuratore processuale, Giorgio Peroni, ha precisato che Berlusconi vuole partecipare a tutte le udienze, anche se ci potranno essere giornate nelle quali non potrà venire per impegni istituzionali. Speriamo siano impegni istituzionali, diciamo così, by day, perché ultimamente in versione by night Silvio dicono che dorme molto poco e lavora tanto. Va bene. Poi continua ancora l'articolo, si parla dell'accusa. C'erano invece i pubblici ministeri Antonio San Germano e Ilda Boccassini, in aula anche Paola Bocciardo, legale di Ruby, che non si è costituita parte civile nonostante le anticipazioni dell'ultima ora. L'avvocato Bocciardo ha spiegato che la ragazza ha subito danni mediatici e che ma non imputabili a Silvio Berlusconi. Questo è quello che accade per quanto concerne la politica italiana. Ora vi ribadisco che siete sempre all'ascolto del Mangia Show, che potete anche voi, se vi va, intervenire a questo programma. Basta visitare il mio sito www.andreamangiarotti.com, per esattezza un blog. Lì potete lasciare commenti, considerazioni o anche scrivermi direttamente per farci sapere, insomma, la vostra voce, per farci sapere, sempre se vi va, se questa trasmissione è di vostro gradimento o no. E dopo Dark Light andiamo avanti con la bella musica. Ho fatto una programmazione molto molto dense anche quest'oggi, un ennesimo lavoro estratto dall'album di Felix J.D. Questa è Beach Sun, musica di grande atmosfera all'interno del Mangia Show. sempre la grande musica di Felix JD a farla da padrone era Beach Summer all'interno del Mangia Show. Ora parliamo invece di politica estera, Libia, Gheddafi, Obama, Stop Iraq, NATO, l'alleanza, civili usati come scudi umani, Bruxelles, sempre un altro articolo estratto dalla ADN Conus, il leader libico Muammar Gheddafi ha scritto una lettera al presidente americano Barack Obama chiedendogli di porre fine ai raid della NATO in Libia. La conferma arriva dalla CNN che cita fonti autorevoli dell'amministrazione americana. Confermando la notizia nella lettera, il portavoce della Casa Bianca si è limitato ad affermare che una cosa sono le parole, una cosa le azioni. Scrive il sito politico, da qui elencato i passi che Gheddafi deve fare prima che l'amministrazione americana prenda veramente sul serio l'ipotesi di un cessate il fuoco. Intanto anche in questi giorni purtroppo la situazione libica è molto diciamo così sempre confusa, ci sono città che passano da una parte all'altra ogni giorno, quindi è una situazione proprio di stallo. Staremo un po' a vedere che cosa accadrà, ma una cosa è certa: come aveva preannunciato Muammar al-Gheddafi non vuole lasciare la sua nazione e tantomeno vuole, diciamo così, abdicare per permettere ai ribelli di prendere il suo posto. Quindi è una situazione ancora molto confusa, speriamo ci sia uno sblocco positivo al più presto. E dopo la musica di Felix JD arriva un altro successo molto bello, questo l'ho reperito dal sito www.archive.org. anche in questo portale trovate un sacco di tracce musicali più o meno recenti tutelate dalle licenze Creative Commons, quindi anche in questo sito avete l'opportunità di attingere per la vostra musica, che potete ascoltarvi nell'iPod oppure scaricarla, o come sto facendo io potete anche distribuirla tramite onde radio. Un tempo si diceva onde radio, oggi direi potete distribuire tramite la vostra connessione ADSL in streaming audio in tutto il mondo. L'artista mi pare si chiami Zucchini, quindi insomma un nome particolare, mi sembra italiano, e ci propone questa canzone dal titolo Ida Mari, dovrebbe essere così la pronuncia, c'è un H davanti, Ida Mari, spero sia corretta. Zucchini, sentite qua un po' che lavoro complesso ma molto accattivante. State ascoltando il Mangia Show. precedenza vi avevo preannunciato un dischettino molto particolare, ma decisamente interessante, Zucchini con Ida Mari, questa bella canzone sempre dance. Insomma, mi piace spesso introdurre delle tracce che toccano il panorama della dance music, così per darvi la giusta carica di energia che vi serve per affrontare insomma la giornata, oppure semplicemente per addormentarvi a seconda di quando ascoltate questo programma, che va in onda in parecchie ore. Quindi, come si suol dire, il divertimento c'è sempre, non ci fermiamo mai, continuiamo a proporvi della bella musica ma anche delle curiosità più o meno frivole. La prossima notizia invece ci giunge sempre dal sito della ADN Kronos, scusate, e ci parla di Facebook. Da Facebook a EgoBook, un click per conservare su carta le tue attività sociali. Veramente qua non si sa più dove andremo a finire. Stampare un libro per conservare tutto ciò che si è pubblicato sulla propria pagina di Facebook è la nuova possibilità offerta agli utenti del social network di Mark Zuckerberg. EgoBook, questo è il nome dell'applicazione, consente di stampare un vero e proprio libro, compreso di copertina con la propria fotografia e sullo sfondo un mosaico di foto prese dai profili degli amici. Quindi qua la privacy va a quel paese, come si suol dire. Facebook consente anche di confezionare a sorpresa il libro per un amico con l'attività da lui svolte su social network. Sembra che la bacheca delle persone, sembra se la bacheca delle persone in questione insomma è aperta e consente questo tipo di, non vorrei dire ruberie, però consente questo tipo di coppia in colla per creare questo libro che da virtuale, diciamo così, diventa reale. Poi avevo anche letto, vediamo se recupero l'articolo, ma ho avuto un blackout del computer, ecco qua, l'ho ritrovato. Poi diceva: il libro pubblicato nella lingua usata dall'utente arriva a casa, pensate un po', entro 48 ore dal momento della richiesta. È un prezzo base di $29, circa 20 euro, che può però variare a seconda del numero di pagine. Per ora sono disponibili i caratteri orientali e arabi, quindi vediamo un po' dove ci spingeremo insomma in questa rivoluzione mediatica che tocca sempre di più il mondo di Facebook e anche ovviamente il mondo dei social network. We'll be right back. mentre sorseggi il tuo drink, mentre mangi, mentre studi o mentre ti addormenti, in sottofondo la musica del Mangia Show. Per collaborare con lo show vai su www.andreamangiarotti.com. Il Mangia Show, l'intesa giusta per la vostra giornata. Brasil con I Miss You, estratto dall'album Electronic Funky, un gran bel album con alcuni campioni di vecchi brani di musica disco anni 70. Qua avrete riconosciuto sicuramente il campione di un vecchio disco intitolato Pop Music, il ritornello faceva proprio così ed era degli anni 70, insomma. La disco music non ha proprio eguali e anche nel 2011 viene ancora rivalutata e utilizzata anche per creare delle nuove e moderne composizioni. Siete sempre all'ascolto del Mangia Show sulle magiche frequenze. Io sono il Mangia, rimarremo insieme ancora per un pochino ed ora andiamo a vedere immediatamente cosa che ci sarà nei vostri cinema preferiti per questi giorni. Quindi andiamo un po' a vedere le pellicole in programmazione nelle vostre sale. Allora, usciranno anche dei nuovi film ovviamente. Intanto andiamo a leggere le principali pellicole. A sud di New York c'è chi dice no: Drive Angry in 3D, The Next 3 Day, Boys, il film, Hop, King Ass, vietato meno di 14, Mia moglie è per finta, Il reparto, vietato meno di 14, Amici, amanti e, vietato meno di 14, Frozen, Sucker Punch, nessuno può giudicare, Scream 4. Poi ci sono altre sale che magari programmano qualche altro film. Come ben sapete, insomma, le multisale o anche le sale cinematografiche, quelle del centro, insomma, tanto per intenderci, alcuni magari fanno scendere i film, altri li tengono ancora un pochino in programmazione. Comunque vi ricordo che in alcune sale saranno sicuramente ancora in programmazione in Dylan Dog il film, Amici miei come tutto ebbe inizio e sicuramente nessuno mi può giudicare, e anche Rango, e perché no, magari anche il Cigno Nero. Questo però dipende da sala a sala, alcune pellicole vengono quasi subito tolte, altre vengono conservate. Questo è il mondo della macchina del cinema, che ruota attorno insomma al mercato cinematografico. Siete sempre all'ascolto del Mangia Show, io sono il Mangia, vi ricordo ancora una volta il mio sito se avete voglia di farci sapere qualcosa, se vi piace o non vi piace il programma, www.andreamangiarotti.com. Лишь для меня одной слова. Mayan Lubov, non so se sia giusto, scusate, mi sembrava in lingua ucraina. Non mi cimento nel leggere il nome dell'artista, se magari visitate il mio blog www.andreamangiarotti.com e la canzone insomma vi è sembrata carina, vi potete scrivere e vi dirò come è scritto e dove la trovate. Vi annuncio che la potete trovare tranquillamente su www.yamendo.com, insomma dov'è che il Mangia Show attinge per la programmazione musicale. Benvenuti a tutti nell'angolo dedicato al cinema, insomma ai DVD. Questo è un angolo che abbiamo inaugurato qualche tempo fa e praticamente il sottoscritto vi consiglierà un DVD per le vostre serate. Sapete, no? Magari viene la giornata che uno deve andare a noleggiare un DVD oppure deve acquistare un DVD, dice ma stasera vorrei acquistare un DVD insomma per vedermi tranquillo sul divano un bel filmettino, ma che film vedere insomma. E io vi leggo, questo è il mio parere ovviamente, poi magari qualcuno la può pensare diversamente da me, vi leggo alcuni film che secondo me sono molto carini e che mi sembra giusto e doveroso consigliarvi. La pellicola che quest'oggi vado a consigliare è Gli amici del bar Margherita, quindi è un film molto molto recente e dal DVD andiamo a leggere un pochino la trama e vi citerò anche gli attori protagonisti. Bologna, siamo nel 1954. Taddeo Pierpaolo Zizzi è un ragazzo di 18 anni, sogna di diventare un frequentatore del mitico bar Margherita che si trova proprio sotto i portici davanti a casa sua. Diventa l'autista personale di Al, Diego Battantuono, l'uomo più carismatico e più misterioso del quartiere e riuscirà ad essere testimone delle avventure di Bep Neri Marcorè. Innamorato a sua volta, Neri Marcorè, Bep si innamorerà di un entrenose Marcella che sarà Laura Chiatti a interpretare questa Marcella. Dopodiché ci sarà anche un Fabio De Luigi molto bravo che interpreta il personaggio di Gian, un aspirante cantante e vittima di uno scherzo insomma un pochino pesante da parte di un altro attore che appunto che gli farà uno scherzo non proprio bello, sto parlando per l'appunto di Zanchi, Claudio Bottosso. Nel cast figura anche Luigi Locascio nei panni di Manuello, tra le altre cose vorrei spendere due parole proprio su Luigi Locascio, molto bravo in questa pellicola, ha dato vita a questo personaggio del ladruncolo e fanatico del sesso che è per l'appunto Manuello. Nel cast figura anche Gianni Ippoliti e Katia Ricciarelli e Gianni Cavina che ricorderete tutti insomma in altre pellicole e, è un film veramente assolutamente da vedere. Ah, mi sono dimenticato di citare il regista, Pupi Avati, in questo film recente che purtroppo dalla mia parte è stato veramente pochissimo al cinema, una settimana, forse il pubblico non ha apprezzato tanto Gli amici del bar Margherita, però io l'ho rivisto un paio di volte e vi devo dire è molto carino, fatto in modo diciamo così corale, c'è un bel cast di attori ed è proprio una commedia corale a tutti gli effetti, con uno strepitoso Diego Battantuono, ma anche gli altri attori sono in gamba. Io però vorrei recitarvi ancora una volta Luigi Locascio, molto bravo nel ruolo di Manuello. Andatelo ad acquistare oppure a noleggiare se c'è nella vostra videoteca preferita, Gli amici del bar Margherita. Ora andiamo avanti con un'altra canzone e poi piano piano purtroppo ci stiamo avvicinando al termine del Mangia Show. We'll be right back. sempre alla grande il sound del Mangia Show, e come in precedenza ricordato, purtroppo questa è l'ultima canzone, quindi siamo giunti al termine. Tra poco i saluti. Avete ascoltato il Mangia Show. Informazioni su www.andreamangiarotti.com. Alla prossima puntata. Grazie a tutti per l'attenzione, siamo arrivati in fondo anche per quest'oggi in questa trasmissione dal titolo Mangia Show. Non mi rimane altro che ringraziarvi per essere rimasti in mia compagnia, che ci ha ascoltato in live streaming su questa radio, e in conclusione vi ricordo ancora una volta il mio sito www.andreamangiarotti.com, dove trovate insomma tutti i vari contatti per entrare in connessione con il vostro amico Mangia oppure il vostro amico Andrea. Vi ricordo che la musica era reperita da yamendo.com e anche da archive.com, insomma sono due grossi portali, due grossi archivi multimediali dove è possibile attingere per attingere insomma alle vostre belle canzoni da scaricare, vi ricordo ancora una volta, legalmente e gratuitamente senza pagare nulla. È un grossissimo archivio musicale di musica Creative Commons, sia yamendo.com ma anche archive.org, mi sembra, sì, archive.org. Grazie ancora per l'attenzione, e noi ci ritroviamo prossimamente per un ennesimo Mangia Show. Voi però rimanete qua perché la musica continua sempre alla grande. Ciao, grazie e ci sentiamo prossimamente. Bye. Ah, dimenticavo, vi regalo l'ultima canzone che è stupenda, di Giuseppe Ranieri. Nostalgia. Sentite qua che suono. Veramente la nostalgia vi entrerà nel cuore. Grazie a tutti, buon proseguimento di giornata o di serata.